un rapporto sicuramente di interesse e di attenzione ai temi ambientali, e anche di c'è anche una fotografia di una progressiva crescita di comportamenti virtuosi che passano attraverso pratiche quotidiane, dalle lampadine a basso consumo al tentativo di tenere sotto controllo i consumi energetici per il riscaldamento, all'interesse per le fonti alternative o di energia o per gli elettrodomestici a basso consumo. Tuttavia bisogna anche essere onesti e dire che si tratta di un rapporto che è in fase di crescita e dobbiamo ancora recuperare terreno rispetto ad altri contesti culturali, però l'interesse c'è, cresce, e va anche detto che le aspettative dei cittadini per essere aiutati a crescere in questa direzione, più che essere centrate sugli investimenti nella ricerca scientifica, che comunque per almeno un quinto delle persone rimane un punto di primo piano, si è orientato più alla politica degli incentivi, quindi è un'azione governativa e di sostegno a questi comportamenti virtuosi, e anche a una necessità di acquisire maggiori informazioni indirettamente, quindi nascondendo un po' l'idea di far crescere la consapevolezza dell'importanza di questi temi. Cioè, ci sarebbe bisogno quindi di campagne di informazione che spieghino i vantaggi di energie alternative, il vantaggio di rispettare l'ambiente che ci circonda, a parte gli incentivi. Sì, sì, sicuramente campagne di informazioni sono, cioè gli italiani hanno la percezione che la diffusione di comportamenti virtuosi, di una consapevolezza nei confronti dei problemi ambientali, deve essere sostenuta anche attraverso campagne di informazione, anche se poi realisticamente, più che puntare sulle sole campagne di informazioni, dicono se vogliamo cambiare effettivamente il piano dei comportamenti oltre a quello della consapevolezza, bisogna lavorare sugli incentivi. Che non è un comportamento tanto virtuoso, cioè approfitto magari dell'incentivo per comprare l'automobile che inquina meno, ma se non mi dai l'incentivo continuo ad andare magari sul triciclo che inquina. Sì, forse non è un atteggiamento virtuoso, però è un atteggiamento realistico. E onestamente, dal mio punto di vista, preferisco un atteggiamento genuinamente realistico che uno falsamente virtuoso. Parliamo dell'altro aspetto, di uno degli aspetti dell'annuario di quest'anno, che è il rapporto invece tra gli italiani e la tecnologia, la scienza. Siamo un popolo di navigatori sicuramente, di inventori, ma poi nella pratica il rapporto magari con le nuove tecnologie com'è? Allora, se parliamo di tecnologia in senso stretto, noi sappiamo che gli italiani sono grandi consumatori di tecnologia dell'informazione. Siamo paesi al mondo con il maggior tasso di proprietà e utilizzo di cellulari, come è noto. E, anche se per certi versi si potrebbe dire che si tratta di un rapporto molto pragmatico e scarsamente accompagnato da una riflessione o da una consapevolezza sul piano appunto di che cosa questo comporta dal punto di vista della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione. Nello stesso tempo abbiamo per esempio ancora molta strada da percorrere per quanto riguarda l'utilizzo di internet. Siamo un paese a basso consumo di connessioni e di utilizzo delle enormi potenzialità di internet, e qui stiamo già ragionando di web 2.0, noi siamo onestamente ancora fermi a molto prima. E sul fronte dell'innovazione tecnoscientifica, in cui la ricerca e l'innovazione si coniugano in modo più esplicito, direi che il dato più forte che emerge dall'annuario di quest'anno è un crescente interesse dei cittadini, dei semplici cittadini, ad essere il più possibile coinvolti e partecipe nei processi di decisione che accompagnano i processi di sviluppo di innovazione. E quindi la richiesta di avere contatto, no, di essere informati e di avere opportunità di contatto diretto con i ricercatori, con gli innovatori, per poter capire da un lato che cosa bolle in pentola, ma dall'altro anche per poter far valere il loro punto di vista di utilizzatori finali nei confronti di ciò che si sta evolvendo, dell'innovazione che ormai al passo precedente a quello della diffusione su larga scala. La richiesta in sostanza è di diventare protagonisti del processo anziché di subire l'innovazione tecnoscientifica come meri utilizzatori finali a cui è lasciata solo la possibilità di scegliere tra utilizzo o non utilizzo. La lontananza dalla rete, cioè lo scarso utilizzo della rete rispetto ad altri paesi, è dovuto ad un problema culturale degli italiani oppure ad un gap infrastrutturale? Sicuramente tutte le cose. Tutte e due le cose. Non abbiamo onestamente ancora una rete sotto il profilo infrastrutturale in grado di sostenere e di alimentare una domanda, una richiesta in questo forte in questo senso. Va anche detto che poi si tratta anche di cambiare appunto mentalità, però è anche vero che è un paese il nostro che sta invecchiando e le nuove tecnologie, internet in primis, va d'accordo con nuove generazioni, quindi con giovani. E indubitabilmente le persone un po' più avanti con gli anni sono meno attratte dalle opportunità e dalle utilità offerte da internet, e quindi questo aspetto demografico ha anche dei risvolti sul piano culturale. Le nuove generazioni però stanno spingendo parecchio in questa direzione e, come sempre, è difficile stabilire se viene prima la domanda e prima l'offerta, quindi c'è un po' di arretratezza sul versante della domanda, leggendola dal punto di vista dei cittadini, ma abbiamo ancora parecchio da fare anche sul piano dell'offerta, non solo sul piano infrastrutturale, ma anche sul piano proprio di che cosa possiamo trovare, per dire, la pubblica amministrazione, che è un sistema con cui tutti i cittadini hanno sempre e comunque a che fare, ancora molto indietro nel nostro paese sotto il profilo, per esempio, dell'utilizzo di internet per snellire la burocrazia, per avere un contatto diretto con i cittadini come strumento di partecipazione. Se la pubblica amministrazione si mettesse in moto di più in questa direzione, investisse di più, qui avrebbe anche un effetto virtuoso di attirare maggiori utilizzatori di internet.